Vabbè, me l'ho conservato quel pacco, la verità. Me l'ho conservato a casa, è nuovo nuovo, sai cosa faccio? Adesso l'ho pronto lì in qualche circolo, dico, ascolta, mettilo come regalo per Natale, ti farai 10 euro, almeno 10 euro di recupero, cazzo, e siamo a posto. Scusa, non ti conviene tenerlo, almeno cacciavi ti li usi. Cosa regalo? Lo metti almeno qualche 10 euro, cioè li usi e non c'è in chi via fa. Vai Tino, riprendi. Sì, ho schiacciato l'altro Mike, questa è la... Porca miseria, non riesco a mettere l'altro indirizzo, vabbè. Aspettiamo ancora, è che ho pagato però. Aspettiamo ancora, va bene. Ok, questo Amazon comunque ti dà molte possibilità, C'è molte possibilità di cosa? Di contattarli, di fare una richiesta di rimborso, tante cose. Se ti sto dicendo che c'è il centro a Sorso per i reclami e per il reso Amazon, l'ho portato, prendo in busta, non ti do un documento, ti arriva la mail e con il rimborso dei soldi entro 7 giorni. Però vabbè, adesso mi sembra che devo fare qualche ordine, devo fare qualche ordine io da Amazon. Me lo fa mia moglie, così vediamo un pochino cosa ne esce fuori. E da qua è arrivato quasi tutti i giorni il corriere, quasi tutti i giorni. E dai, roba da vestire, queste cose qua. Va bene, va bene, va bene. No, io oggi lo dovevo avere, e invece no, non è arrivato. Mi è arrivato un altro pacco che non era il mio, figurati. Sì. Antonello, ma tu hai PRM acceso? Sì, aspetta. Tolgo questo qui e ci metto l'altro di PMF. 2 secondi e metto la gaccia. Adesso vediamo se mi sente Antonello e atti. Ehi, va bene. Perché uno più lo fa due, se mi sentono da una parte anche lui dovrebbe copiarmi adesso. Aspetta che scrivo questo qua, che vuole una moto, che se riesco do anche il come si dice, il la motocross, dai. Ma vai, la stai già dando? Sì, la sto vendendo praticamente quanto l'ho pagata io. Non la usa, là. Sai com'è, le cose sono belle quando ce le hai, e poi quando ce le hai le molli. Sono belle quando non ce le hai, le desideri, quando ce le hai poi non le vuoi sapere. Purtroppo è così. Purtroppo è così. E vabbè, cosa vi vuoi fare? Guarda se riesci. Almeno recuperare quello che ho speso, Perché uno mi ha fatto il prezzo e io ho detto, ascolta, il prezzo lo faccio io, se va bene, bene, se no lasciala stare. Che mi fai, il prezzo tu? Sì, sono affaristi e semmai uno può dire, ascolta, cioè uno si mettono a fare i prezzi, uno può dire, ascolta, non mi viene incontro per il gasolio, devo venire da Cagliari, devo venire da qua, devo venire da là, però non è che puoi prendere, puoi fare il prezzo tu, magari te ne scendono, ti scontano anche le due, cioè si vogliono farsi togliere anche le 200 euro secondo la testa loro. No, vabbè, ma uno, allora io parto dal presupposto che tu stai facendo un prezzo, io mi devo adattare a quello che è. E te lo chiedo, ma è possibile un piccolo sconto, qualche cosa? Non è che io ti dico, no, 500 euro, no, cazzo, io sto vendendo 600 euro perché 500, ma per voi dire, no, è un prezzo così virtuale. Non lo so. La gente è già contratta, cioè contrattare, il commercio è contrattare, però, porca miseria. Ci mettiamo d'accordo, non è che faccio, non è che mi fa, che ne è gente mezzo macca, mezzo affaristi. Sì, sì, sì, è come quelli che per dire vendono sia 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro. Sono io il primo a non chiamarti, ok? Ma se mi dovesse servire un qualcosa e vedo un prezzo che da 1.000 euro tu puoi contrattare sino a 800 euro, ti dico va, non voglio perdere tempo, ma non ti voglio neanche far perdere tempo a te, io ho a disposizione 800 euro, li accetti? Se li accetti è bene, se non accetti vabbè, basta, è stata una mia proposta. Esatto, esatto, uno prende e dice guarda, ti chiamo per questa cosa, ma è trattabile, ci parli così, alla fine dice guarda io dispongo, se ti va, io ho a disposizione 800 euro, non so se potresti essere interessato a questa cifra, ma giusto, tanto educatamente. Ma a volte a me mi chiamano quando c'ho roba in vendita, a scuola fai il coso, 100 euro, ma io l'ho messa a 300, 100 euro, ti offro 100 euro, no, compa, il pane vai e te lo compri, no, io non me ne devo comprare pane, quindi chiudi, io ti posso chiedere uno sconto di una ventina di euro, dici dividiamo la spedizione, se lo vuoi fare, se no mi pago tutto, non è che divento più povero, però il contrattare è sempre buono. Ebbene Antonio, attaccato adesso Baofeng. Canale 7. No, lo vedi, il canale te lo dico io. Adesso facciamo un fattottino con quello della moto. Ascolta, ma c'hai il Baofeng col diciamo a frequenza oppure canalizzato? È canalizzato, se non l'avessi fatto. L'ho messo in carica, l'altro ce l'ha mio nipote. Hai capito? Quindi su 7 poi. Vedi tu, altro non ti posso dire. Al canale del 7 ti 446081. Ascolta, ho un FT 9000, costa 4.800, ma lasci 500 euro. Sì. Vieni a prendere. Perfetto, allora affare fatto. Chiudi, togli tutto quanto l'annuncio, sto arrivando. Che è bello che. Magari 446081 se non sbaglio, dovrebbe essere canale 7 punto 25. Ah, 446081 punto 25 va in automatico, punto su. Guarda, adesso provo a vedere se riesco a sentirti, vediamo se riesco. 446, dove cavolo è? 070, 080, mi dovresti sentire anche qua, guarda. Sì, che ti ascolto. È a voglia che ti sento. Tu mi senti a me. Aspetta Antonio, guarda se cuppi a me. Ti stavo chiamando Antonio, mi hai sentito? A te no, ma tiro sì. A voglia che arriva. Antonio, prova a parlare. Perché non sta parlando? Sei un boccione, è un boccione. Aspetta che abbasso il carrier, che è troppo alto. Eccolo qua. Antonè. Sto tornando a dove siamo noi. Aspetta, allora, facciamo così, là. Aggio compreso. Adesso attacco quello di 10 watt e vediamo se mi senti. Due minuti. Attacco il cinese di 10 watt. Antonè, prova a chiamare. E adesso ti chiamo, eh. Ma dove non funziona su off? Beh. Io ti ascolto, chiama. Tino, chiama. E allora. Antonio, se tu non togli la portante innesca, ma il fatto è che io non ti ascolto. Accudidi, accudidi. Chi è che c'è in 145? Esce a vedere. Claudio. Mi sta arrivando basso di segnale a me. Qua è fondo scala. No, no, a me mi sta arrivando senza segnale. Vabbè. Antonio, mi sembra che tu devi comprarti se vuoi fare nella, se vuoi fare il PRM ti devi prendere un una radio, una radietto. Guarda che è stata catolazza, guarda un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda se mi ascolti su canale 7. No Antone, io non ti ascolto. No, no, no, Antone, niente. Niente con disturbato, non è possibile. Vai Antone, niente. Ui. Abbassiamo qua. Sto digerendo la carne arrosta, porca miseria. Abbiamo mangiato quei due spaghettini con, te l'ho detto, con quegli scampettini e del salmone affumicato, ma proprio leggero, senza essere aggressivo in niente, in tutto e per tutto. E poi mi sono tutto quanto coricato. E hai fatto bene. Devo dire una cosa dall'altra parte. Ramos. Potrei essere venuto. E quindi niente. Oioia. Non funziona. Antone, prenditi un VEU, caspita, del serio, e ti metti un'antenna sul tetto e, o nella ringhiera te la metti, almeno esci bene. Oh, capì, mica ha trovato il bruciatore che ho io a 100 euro, L'hai trovato, dove? Vabbè, la marca è Vevor. È la stessa che ho io, vai su Vevor e lo trovi. Aspetta, scusa un attimo. Mi sa che me ne prendo un altro anche. Te ne ordini un altro. Me lo vorrei ordinare anche io. Mi sa che devo vedere un pochino dove piazzarlo, perché caspita, è micidiale. Sì. Aspetta che qua devo abbassare una cosa, perché anche una tacchetta fa la differenza. Eccolo qua, perfetto. Niente. Ti dico una cosa là. Ci sono. E niente. In questi giorni già lo stiamo collaudando, dai. C'era una portante qua poco fa, avanti, buonasera. Chi è? Perché è così? Perché? Cosa stai combinando? Sto entrando in 156. Stai disturbando la banda marina. No, vabbè, è la ricezione mia. No, devi disturbarli, almeno imparo e lavoro. vediamo chi c'è qua. Antonello, sei caduto dalla sedia, ti sei fatto male, vero? Antonello, succhia il caramello. Non c'è, è caduto dalla sedia. Mannaggia. No, Cristian deve essere che l'ha abbandonato la batteria. Sì, i sentimenti. Non ha abbandonato i sentimenti. E cosa vuoi fare? Franco... Boh, Franco è sparito, Franco si è preso il radio, Franco si è preso quello, Franco stava cercando, e invece è un'assentista totale. Quel signore è un assentista, guarda, che la metà bassa. E poi dice a noi che non ci siamo più. Oh, il bello dice, non ho più sentito, vabbè, se non accende la radio non ci senti, non è che mi senti a voci da qua, abitiamo vicini, però non è che mi senti a voci. Dice, non ho più sentito, vabbè, se non accende la radio non ti intendiamo, se accende la radio ti intendiamo, pure a te. Sbagliando sto. Ma cosa vuoi farci, purtroppo è così. No, secondo me è più l'anzianità che fa queste cose. Sì, sta diventando vecchio, eh. Esatto, esatto. Adesso gli chiedo se mi prende quel 4,40 che si è preso, così tanto non se ne fa niente lui. E allora, tanto non sta usando. Sì, glielo chiedo, adesso mi domani mattina ho il telefono e gli dico: fra, me lo vendi il 4,40, quanto l'hai pagato? Me lo compro io, me lo vado e me lo prendo domani stesso. E poi dice: ma cosa sei di zenne, ma cosa? Sei per me isu. Cosa gli sei vicino a Udratta? No, che non lo usa così a guardarselo, che ci può anche stare, ognuno lascia roba, fa quello che vuole. No, domani a partire scherzi, domani lo chiamo e glielo chiedo. Glielo chiedo se me lo vende e me lo metto in garage. E allora, sì, sto guardando una cosa su internet che è stata fatta apposta per i radiatori a muro. Praticamente è una ventola che prende tutto il vano sottostante del radiatore, no? Si attacca sotto, però è tutto uniforme, alimentato a 12 volts e praticamente ci sono tre ventole di computer, credo, che mandano aria nel radiatore per poi farlo uscire aria calda. È una bella idea questa, lo sai? Cioè aria nel radiatore, ma nello strumento che hai tu? No, nel radiatore dell'aria calda, nel radiatore come te lo posso spiegare? Quei radiatori che si mettono sotto la finestra per il caldo, quelli che sono scaldati all'acqua. Ah, i termosifoni, ok, li mettono la ventola dietro o la mettono davanti la ventola, non dietro, perché dietro raffredderebbe il termosifone e manderebbe aria fredda. Te la mettono davanti? No, te la mettono sotto, non davanti, sotto, in maniera tale che l'aria da sotto va a convogliare nella camera d'aria del radiatore e ti manda aria calda. È una bella idea. È una bella idea, la stavo studiando già da qualche anno, diciamo, nella zuffa, però vorrei fare una cosa bellina in maniera tale che non suoni con la zuffa, ecco. Sì, ti ho capito. Devi prendere invece quelle ventole silenziose e metterle là. Io avevo visto una stufa a legna e avevano messo una ventola molto silenziosa davanti, aspirava l'aria calda e la mandava. Lo sai che funzionava bene, funzionava molto molto bene. Dice: io accendo questa ventola, poi avevo un trasformatorino piccolino, una ventola un po' grossa, magari sono stata 2 ampere, 3 ampere, e silenziosa, sentivi giusto tipo il ventilatore, e l'aria calda la portava al centro camera e funzionava. Sì, avevo già studiato questa cosa qua, è che non volevo mettere le classiche ventole da PC così brutte e grezze, volevo fare una sorta di struttura, oppure comprare una ventola cilindrica, che l'ho vista, quella che si usa, che hanno i condizionatori portatili, diciamo, è una ventola cilindrica che lavora in orizzontale, è messa in una parte determinata dalla stufa per poter fare un po' di vento. Praticamente il vento lo sbatte nella stufa e la stufa la scalda. Aspetta un attimino. È una buona idea. Buona. Chi è? Io, do buono. Allora, sono qua, avanti. Ho detto do buono. Perché non buono? Perché ho un casino in pratica, più che altro. E perché? Cosa è successo? La luna non c'è su niente, non ti preoccupare, sì, ci mancherebbe. Poco fa stavo provando una cosa, ma non funziona, cazzo, peccato. Ma un tecnico come te, quando mai non riesce a aggiustarla? Come sta Simona? Simona che ha aggiustato la sola, che cosa vuoi aggiustare? No, ho detto come sta Simona, tutto a posto? Poi, carità, peggio. Tutto il giorno col freddo e tipo febbre, sta fumando e quindi devi capire cos'è il problema. Diglielo di non fumare, diglielo, te l'ho detto io, diglielo. Così mi si manda a far culo a me, a te pure. Poi, carità. Già siamo a posto, siamo. Adesso in attesa devo andare a caricarmi le batterie di quell'aggeggio. Si è bruciata la centralina frontale, quindi mi carico le batterie e me le vendo 100 euro una, costano 125 a Sassari, quindi le vendo 100 euro e se la prende in culo. Ti stai vendendo ancora con le batterie? Oh, io. Vabbè, non è che me la stavo vendendo, gli altri ricordi, più che altro volevo sistemarla, e invece si è bruciata la centralina, va a far culo adesso, del tutto. Non carica né niente da sopra, quindi a un certo punto, siccome le batterie sono nuove, c'erano 2-3 mesi di vita, non di più, ho comprato il caricatore 60 euro per le batterie a 24 volt, adesso me le ricarico e me le vendo. Poi mi vendo il caricatore, ho comprato la Fusaro 60 euro, con lo scontrino, 2 mesi fa. Vabbè, no. Guarda, secondo me conviene fare un baratto. Sì, un baracchino. No, un baratto nel senso che tanto oggi come oggi, Antonio, tu lo sai, non c'è gente che ha soldi da spendere. Ah, ho capito, tu volessi mettere in camper un baratto. In cambio cosa mi dai, cazzo? Una settimana di vacanza alle Maldive? No, io non sto parlando per me, sto parlando un baratto, tu devi proporre il tuo prodotto e in cambio senti cosa ti propongono gli altri, no? Se ti va bene accetti, se no nisba. Cosa ti propongo? Io non ti posso proporre niente perché non ho niente di interessante. Appunto, mica mi puoi mandare le Maldive, il discorso è quello. Non lo so, adesso vedo un po' quello che è uscito fuori. Di certo non lo metto su Marketplace a fare la fine, cazzo, di 127 euro famosi in cacciavite, quindi a un certo punto sasso i pagamenti in contanti veloci e me le viene a casa a portarmi i soldi, se no col cazzo che glielo do. C'è anche quello, molta gente magari dice no, fa una cosa, mi servono, se me le dai me le porti a casa e io te le compro. E non è detto che devo venire da te a prenderle, io ti posso barattare un Baufen e basta. Input però. Mi vuoi barattare? Ho detto io ti posso barattare solo un Baufen, un Kenwood, ma non altro. Ah, il Baufen che ce ne ho, io sì, se te ne servono. A olio. No, non me ne faccio niente. Ne ho tre io e mi bastano e avanzano, tanto ne uso solo uno, quindi ci sono, eh? No, io ne ho davvero semi. C'ho due V5 Doppio Plus, poi c'ho due Baofeng 888 e poi ne ho comprato altri due, nuovi, mai toccati. Sono sigillati dentro la scatola, li ho solamente aperti per vedere se c'era e basta. E lì ce l'ho rimessi. Quindi figurati, pensavo di averli persi. E invece ce l'avevo, li ho ritrovati perché c'era la mia nipote e ce l'aveva, capito? E quindi mi sono tenuti dalla parte qua a casa. Sono nuovi dentro la scatola e a voi a Baofeng. C'è la frequenza 462, quella originale. Ho capito. Vai così. Sì. Beh, Antone, è uno, aprilo e usalo. Non è che, cioè, intanto conservati non è che risolvi niente. mio segno. Voglio usare il Maufeng. Io ho 5 di più plus, 2888, che vanno dalla 8 TMR, l'altro, gli altri 8, cioè in pratica 8 TMR più LPD. Poi gli altri due che ho sono inscatolati, li aspetti solo se dai cinesi per comprati, a vedere se c'erano dentro, non so che non ci fosse, che ci fosse qualche sorpresa. E non li ho mai toccati, la frequenza è 462-250, la frequenza me la ricordo perché è quella. Poi c'hanno come si dice, il tono squelch, in pratica per due persone si sentono fra loro, però tu lo senti a uno o l'altro, capito? Tutto lì. Quei Baofeng ne ho a sacciatura, poi ce ne ho altri due, ne ho giù a casa di Giovanna, che li ho dati io. Ti ho comprato di Baofeng, dai cinesi. Sì. Vabbè, no, io ne ho uno ed è quasi sempre, ed è sempre spento. No, non lo uso. Il VR5, ma l'ho preso nel 2018, mi sa. 2016. Ed è sempre lì, tranquillo. Lo uso poco e niente. Pensavo, qua ne sta scendendo l'aria, qua ne c'è un tempaccio fuori assurdo, vento e acqua forte, a te molto sta piovendo? No, per dire la verità non ho ancora niente, io però mi devo lontanare che ho mollato due personaggi, stavo arrivando subito e poi me ne stavo dimenticando. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Beh, ci sentiamo più tardi al limite, eh. Sì, sono qua. A dopo. Va Antone. A dopo ti. Ci vediamo dopo, poi no. Controllo i bambini, non c'è problema. E quindi così. C'ho quelli lì, poi. Il Codens 4000 l'ho fatto fuori, la Mantova che c'avevo io l'ho regalata, l'unica cosa che mi son tenuto sono i 40 metri di cavo che mi hanno regalato a me, mi sono cercato di prendermi quella, la palicchia di cosa di detto vicino di casa, la verità, il come si dice, l'MS200 con microfono da tavola e fa fan cuffia. Ma tu adesso stai usando il 140, Antone? Sì, sto usando il 140. E chi te lo fa fare a prenderti un altro baracchino? Io ne sto usando uno. Non è che. Ma che antenna c'hai tu adesso? Identica a quella che mi hai dato tu, tale uguale, precisa identica a quella che c'era il tuo vicino di casa, 60 euro ho pagato, l'altra l'ho regalata a Giovanna, la tua l'ho regalata a Giovanna, c'era lei, c'era, gli ho regalato anche il cavo, il 1058, e poi vabbè, il tuo vicino di casa mi ha regalato 40 metri di G213. Vabbè, vendimeli. Vieni a prenderti, uno lo ammetto, ti va bene, te lo prendi, c'è anche i piedi agganciati se li vuoi, anzi ne ho staccato uno, la verità, e ce l'ho insieme al cavetto, intanto non è che ci puoi infilare due piedi dentro un pezzo di muro così. Ok, €1 al metro me lo prendo io, ma tu domani ci sei? Sono a casa, so. Ok. Guarda che sta piovendo. Sei sicuro che sono 40 metri? Sì, te lo sto dicendo. Non è bugiardo il tuo vicino di casa, già lo sai. Io non lo conosco. Antone, io non lo conosco. Vengo io domani a prendermelo quel cavo. Te lo compro io. €1 al metro te lo compro io. Domani mattina vengo verso le 10:30. Vabbè, fino a te, detto, non c'è problema, tanto io non me ne faccio niente. Un euro lo metto, va bene. Per gli amici, no. Per gli altri già lo sai. Cazzo, lo sai quanto me l'ha fatto pagare a me? 15 metri me l'ha fatto pagare a quasi 2,50 euro fusato. Sì, sì, sì, no, vabbè, anche in internet lo danno, c'è il 213 a 1 euro al metro, usato. No, no, te lo prendo io. Te lo prendo io e niente. Domani mattina vengo e me lo ritiro io. Verso le 10:30, dai, verso le 10:30 salgo e mi ritiro e me lo ritiro. Ascolta Antonè, però non mi fare salire a vuoto, eh? Ma ti ho fatto mai salire a vuoto io? Penso di no, quindi sali, te lo prendi, ti ho detto, c'ho anche il PL col pezzo del capetto che ho tagliato, tanto non è che devi bucare il muro, cazzo, se c'è un muro in blocchetti, cazzo, devi fare il buco più largo per infilarci il PL. Quindi in pratica c'è il pezzettino del cavo che ho tagliato io, più che altro. Comunque il cavo è a posto, l'ho fatto per controllarlo, se era ossidato oppure no, hai capito, il discorso è quello. No, non è un problema, non è un problema. I PL se ti servono te li puoi anche tenere, non mi servono a me. Sì, domani mattina salgo, qua sarei salito adesso, ma non ho voglia di cambiarmi, sono in pigiama e non ho voglia di cambiarmi. Però domani mattina vengo verso le 10:30 e me lo ritiro io quel cavo. Cosa nel campanello cosa c'è? Pitau? Già lo sai, ya te lo ricordi già. Ok, domani mattina vengo e me lo prendo. Domani mattina vengo e me lo prendo. Considero che è già venduto. Va bene, già sono a casa. Che lo metto, devo fare una cosa e mi serve il cavo lungo, mi serve il cavo lungo e va bene così. E quindi la manto fa le regali, ma perché la regali la roba? Ma porca miseria, ma per cosa regali la roba? Cioè la manto va non è antenna a regalare, Antonio. L'ho regalata perché l'ho vista, cioè, lo sai lo strumento che ne ho preso io, sai cosa vuol dire che entra fulmine dentro casa, ti brucia te televisori, vedi la tua fidanzata, cazzo, che è in panico totale, cazzo, che non sai come cazzo fare, a un certo punto ti viene in panico anche a te, e a me mi è arrivato il cuore, cazzo, che era più di 120, cazzo, c'è addirittura il termico, cazzo, quello che c'è dentro casa, te lo faccio vedere domani. Poi dimmi se ci ho ragione, ti faccio vedere lo stampato che ce l'ho qua di quel televisore che c'è a Simona in camera sua, già te lo dico, in camera letto, quello 40 pollici, che condizioni gli ha fatto? È un casino, e vabbè, ma come lo prende i fulmini, come li prende la Mantova, li prende anche un'altra antenna, attenzione. Però io la Mantova non l'avrei regalata. La Mantova ne puoi ricavare anche una quarantina di euro, una cinquantina di euro. L'avrei messa a posto e l'avrei venduta. Cioè tu la roba la paghi, non è che te la regalano. Io non l'avrei regalata la Mantova, proprio, mi ha detto proprio, cioè Antonese, non. Tanto poi la regali e nota bene ma che in faccia, quindi non avrei dato. L'avrei presa, l'avrei aggiustata, l'avrei messa in internet o a qualcuno e ne avrei ricavata, può essere 50 euro. 50 euro e togli fuori. E la Mantova 50 euro la vieni chiusi e te l'avrei presa io. Se tu mi avessi detto, mi sto vendendo la Mantova, la voglio 50 euro, te l'avrei comprata io. Non ci stavo neanche pensando quei tre giorni lì, non ti preoccupare. Quindi no. Ho detto non la voglio più vedere, ho detto guarda, l'ho chiamato a cosa, ho detto vieni, ti serve la Mantova, gli ho detto che tu c'hai la Mantova in quelle condizioni, ho detto te la sistemi, gli ho detto, perché c'è bruciata la bobina, non c'è nient'altro, gli ho detto, tutto il resto è a posto, ho detto. quindi veduto io l'ho smontata, gliel'ho lasciata nel terrato, se l'ha portata via nel tram, adesso se la sistema piano piano, mi ha detto gli cambia la bobina, a meno che non trova la bobina di, cioè non trova la base di una Mantova 5, fa prima, mi ha detto, perché Mantova tubo non le trovi più in giro, quindi a fargli la bobina all'interno è un casino col cavolo rigido, già lo sai anche tu, non ne vende più nessuno. Quindi a un certo punto gli ho detto arrangiati, tienitela, non ne voglio più sapere, gli ho detto. Già basta lo scavento che abbiamo preso, ho detto, non ne voglio più prendere, ho detto, guarda. Vado, mi prendo l'antenna di Antonio, che c'è vicino a Gavino, prendo quella, piazzo quella immediatamente e poi sono a posto, ho detto, non ne piazzo più, ho detto Mantova, né 5, né turbo, né cose del genere, basta quello che ho passato, cazzo. È leggera, se si dovesse spaccare va a fanculo, ne scende in terra, c'ho l'altra di riserva, quella che mi hai detto tu. Quella ce l'ho a casa di Giovanna, quindi non ce l'ho buttata, è a casa sua, anzi, se dovessero fare, spero che si decidano la ristrutturazione del palazzo, immediatamente io gli piazzo un tubo da 16, gli piazzo le 1058, gli mando dentro casa, a me lo usa l'antenna del baracchino tuo, a me lo parla anche lei, c'è il 3009, c'è l'emettatore che gli ho regalato e non sto usando il baracchino per quello, capito? Sì, capito. Capito perfettamente Antone. Boh. Comunque l'antenna, Antone, a qualsiasi antenna limiti alla base dove ci sono i radiali, vai dai cinesi, ti compri una matassina di lenza anche da 60, da 80, lenza un pochino grossa. E gli fai un nodo alla base e poi la porti, e poi in ogni giuntura dell'antenna prendi e gli metti la lenza lungo la canna dell'antenna, e ogni giuntura prendi gli anassi, gli fai un giro di anassi isolante, e dovendosi spezzare l'antenna non cade a terra, mi segui, perché c'è la lenza grossa e non cade a terra e non fai danni, capito Antonio? Ti rimani bendola a bendola, però non fai danno agli enti. Quando abiti in palazzo così e c'hai pericoli sotto, bisogna prendere tutte le precauzioni. Gli metti la lenza alla base, gli fai un nodo alla base dove aggancia al palo e poi tiri la lenza su. Se si dovesse spezzare qualche elemento, il puntale o quello che è, ti rimane appesa e non fai danno. Ti ho capito, meno male a me mi ha beccato la bobina, in più ha scaricato sotto il tubo dove è installata la Mantova, e lì c'era il cavo della TV, c'era, me l'ha bruciato, spaccato a metà, bruciato, e mi ha bruciato tre televisori, mi ha bruciato, figurati tu. Quindi sono dovuto andare, cazzo, una cosa, comprarmi i televisori, eccetera, eccetera, ho speso più di 300 euro. Ma è più con la Mantova, infatti ho preso, l'ho staccata, ho detto guarda, quando l'ho smontata, ho detto, a me mi sembra integra, ma è strano che il bullone centrale, dove c'è la bobina, ha detto non si molla manco morto. Quindi si è incollato in pratica la bobina, qualcosa, bisognava smontare tutto, eccetera, eccetera, e c'era lavoro da fare, non è così facile, purtroppo il cavo rigido in rame non lo trovi così, non ce n'è quasi, non esiste quasi più, se no me l'avevi ricostruita, già lo sai. Quindi a un certo punto il cavo mobile non ne puoi mettere, a meno che non ne metto cavo di bobina di un trasformatore, ma deve avere il cazzo il diametro, calcolare tutti i cosi, è un casino. Ho preso e tasco, portatela via, non ne voglio sapere, e ho detto, te la sto regalando, ho detto. Infatti se la porto via, gli ho dato anche addirittura le gli ho venduto l'apparecchio 120 euro, il Connex 4000, me l'ha pagato subito, e sono rimasto contento, è stata una persona in gamba. Ne trovi poche così che in pratica ti pagano i soldi contanti prima e poi vengono a ritirarselo dopo l'apparecchio, dopo che hanno finito in pratica di pagarlo. Hai capito? Sono di solito troveresti il contrario. Ero un amico e quindi per me mi è bastato così, è stato un vero amico, è stato. Ecco perché gli ho regalato l'antenna, portato la via, eccetera, eccetera, gli ho detto, poi Antonio ha detto dammi, ha detto guarda, c'ho 60 euro, tu dammi l'antenna tua, gli ho detto mi piazzo quella lì, gli ho detto perché non so come cazzo fare. Adesso mi sono pensato quella e poi la tua l'ho lasciata è per Giovanna, in pratica adesso appena faranno i lavori esterni, siccome è tutta la palazzina è tutta messa male, quando la guardi è tutta trappida male, ti accorgi, quindi devo per forza fare tutto. E a un certo punto ne approfitto, piazzo la canaletta e la faccio arrivare fino a casa sua, la faccio arrivare col cavo dentro, con il 1058. Sì. Antonio, fallo bene, e quindi, e poi sei sicuro di quello, diciamo poi, perché tu di lì dovresti prendere, tu di lì già sei in alto, e anche un antennino corto, corto, devi ancorartelo bene, devi ancorarlo bene, e sistemarle bene, Antonio. Però purtroppo l'età non è più quella di prima, lo stesso, stare appeso, stare a fare e niente, tiranti e tira a campà, e tira a campà. Va bene Antone, dai, io vado un po' in cucina e dopo siamo in radio, dopo continuo, già siamo in radio, se vuoi entrare anche più tardi, verso 8:30, già siamo in radio. Comunque per domani è confermato, vengo verso 10:30, sono a casa tua, non mi va a Biudu, così mi ritiro quel caffè, ok? Sentiamo dopo, se entri, ciao. Già sono a casa, non ti preoccupare, ma non devo uscire da nessun posto, quindi e ci vediamo domani mattina, se dopo entro vabbè, non c'è problema, non preoccupate, ok? Va bene, dai Antone, a dopo, ciao ciao. E io, ciao ciao.